in primo piano. Buongiorno, buona Pasqua da Giulia Crivelli. Scusate la voce un po' così baritonale, ma è lo strascico di un'influenza invernale e se mi scappa un colpo il dito se mi perdonerete, ma spero proprio di no. Cominciamo ancora buona Pasqua innanzitutto, oggi è appunto domenica di Pasqua, buona domenica e buona Pasqua. Cominciamo dal Sole 24 Ore che un po' ci fa guardare già la prossima settimana perché si concentra il titolo di apertura su tutte le novità sulle corse agli sconti fiscali per le imprese e gli investimenti, come gestire i premi e quando accumulare i bonus, dall'acquisto di beni al credito d'imposta per le regioni del sud fino al patent box. E ci sono tutti gli approfondimenti a pagina 3. E tra l'altro viene anche annunciato per quanto riguarda la prossima settimana questa guida che sarà in edicola con il Sole 24 Ore mercoledì, famiglie e diritti, le nuove regole dai matrimoni all'eredità. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è EMAC, meno magazzino per contrastare i mercati volatili, quindi poi trovate tutto a pagina 16. L'intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasco Bruno Forte non poteva che essere sulla Pasqua. La Pasqua è il piccolo bene a misura di tutti. Vi leggo le prime righe, visto che appunto oggi è proprio Pasqua. Per riflettere su questa Pasqua 2016 parto da alcune riflessioni che Hans Urs von Balthasar, uno dei grandi teologi del XX secolo, ha dedicato al tema della bellezza. In un mondo senza bellezza, scrive agli inizi del primo volume della sua opera monumentale Gloria, anche il bene ha perduto la sua forza di attrazione, l'evidenza del suo dover essere adempiuto. In un mondo che non si crede più capace di affermare il bello, gli argomenti in favore della verità hanno esaurito la loro forza di conclusione logica. E poi trovate tutto a pagina 19. Non si può non parlare di terrorismo, naturalmente, allora vi segnalo due articoli, uno di Luca Ricolfi, che torna sulla questione, speriamo venga risolto, che comunque resti al centro del dibattito, di un coordinamento europeo nella lotta al terrorismo e soprattutto di un coordinamento tra intelligence dei diversi paesi. Il titolo quindi dell'articolo di Luca Ricolfi, terrorismo perché l'Europa è impotente. Alla base c'è appunto una serie anche di mancati coordinamenti. E poi invece il commento proprio di Alberto Negri, se i lupi non sono più solitari, e vi leggo le prime righe, poi lo trovate a pagina 7. La fine della storia dei lupi solitari, che pure ci sono stati, e delle schegge impazzite. Nelle racca d'Europa tutti si riconoscevano ed erano già in gran parte noti alla polizia, che fosse belga, francese o americana o addirittura turca. Quindi proprio un cambio di prospettiva, no? Perché spesso ci era stato detto che alcuni di questi terroristi, compresi quelli di Parigi del 13 novembre, erano appunto dei cosiddetti lupi solitari, quindi poco controllabili dallo stesso ISIS, che cercavano, si attivavano, decidevano di diventare kamikaze senza un ordine preciso. Secondo Alberto Negri questo non è così e soprattutto non è così. I nascondigli di questi lupi solitari sono abbastanza noti. La prima pagina del Corriere della Sera ha una fotonotizia completamente diversa ed è una ragazza che salta nell'aria, sembra davvero quasi volare, una foto scattata a Cuba dove due sere fa c'è stato questo storico concerto dei Rolling Stones, tanto che Pierluigi Battista dice finisce così la guerra fredda, ma Cuba non è ancora rock. E poi il reportage di Andrea Lafranchi, che ha avuto la fortuna di assistere a questo concerto, Mick Jagger alla folla, i tempi cambiano, noi suoniamo per voi. Un approfondimento di Lucrezia Reichlin sulla questione della Brexit, una delle tante questioni di attualità economica che giustamente non, di fronte a fatti come quelli di Bruxelles, con il contorno poi di tutti gli altri attentati di questi giorni, compreso quello di cui avete sentito anche nei GR del campo di calcio di cui in Iraq, in cui sono stati vittime soprattutto ragazzi molto giovani, 41 finora le vittime accertate. Ecco, di fronte a questi atti naturalmente legati al terrorismo scompaiono altri fatti di attualità economica, però ricordiamoci sempre di questo spettro della Brexit, cioè dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, non dalla zona euro, perché naturalmente la Gran Bretagna non è mai entrata nella zona euro, ha sempre tenuto la sua sterlina. E molto dipenderà dal referendum che David Cameron è stato costretto ad annunciare per giugno. Secondo Lucrezia Reichlin, l'economista, scenari europei in accelerazione, la difficile partita italiana, cioè la posizione che l'Italia deve prendere. E poi, naturalmente, richiamati in copertina anche gli aggiornamenti sulla questione Regeni e, come su tutti gli altri giornali, tutto quello che riguarda le indagini che si stanno svolgendo a Bruxelles, a Parigi e in tante altre capitali europee. La Repubblica infatti titola proprio su questo: Belgio, colpo all'ISIS. All'ISIS, in realtà allo Stato Islamico, strage in aeroporto, preso il terzo uomo. Questa è la notizia, l'avete sentita anche nei GR, c'è la stessa foto di questo Faisal Shefu, già giornalista freelance, presunto terzo uomo. In quelle foto scattate dalle telecamere interne dell'aeroporto è quello col cappello. Dalla prima pagina della Repubblica, però, anche in questo caso la fotonotizia viene da Cuba. La prima volta che ascoltai Satisfaction di nascosto, un articolo di Roberto Fuentes. E poi richiamato in prima pagina anche un ricordo di Paolo Poli, morto giovedì scorso. Il grande attore avrebbe compiuto 87 anni, era malato da qualche tempo. Il ricordo lo firma Natalia Aspesi: quando Paolo Poli interpretò me in teatro, l'attore e quella parrucca bionda, perché appunto Natalia Aspesi, come forse sapete, ha questo caschetto biondo da sempre che la caratterizza. Il Messaggero a sua volta titola sulle indagini e sulle stragi dell'ISIS, questa volta però concentrandosi sulle indagini che come vi dicevo, Bruxelles naturalmente è il centro di tutto in questo momento, ma le indagini sono in corso in tutte le capitali, in tutti i paesi europei, Italia compresa. E quindi la rete in Italia: fermato a Salerno un algerino, avrebbe fornito documenti falsi ai kamikaze di Parigi e Bruxelles. Viveva a Brescia il marocchino catturato in Germania, al giorno dei blitz a Möllenbeck era con Salah. Quindi tutti gli aggiornamenti sulla parte italiana delle indagini. E poi al delitto Regeni è dedicata la fotonotizia, perché sapete, la reazione del governo è stata: non ci fermeremo davanti a queste verità, che anche Ugo Tramballi qui alla radio nel suo editoriale già due giorni fa ha definito praticamente ridicole queste versioni, quest'ultima dei cinque presunti rapitori, che poi sono tutti morti quindi non possono raccontare la loro versione, presunti rapitori di Regeni. Si scopre che lo zainetto trovato in casa di uno di questi rapitori, all'inizio spacciato per zainetto di Giulio Regeni, di Giulio non è, e quindi l'ennesima tutto sommato conferma che queste sono le bugie dell'Egitto. I PM, quello zaino non è di Giulio, e trovate tutti gli approfondimenti a pagina 8 e 9 del Messaggero. Il Messaggero ha una storia di cronaca tristissima che si svolge a Roma, quindi da qui appunto la prima pagina del Messaggero: i ragazzini comprati con felpe e ricariche telefoniche, un arresto, in carcere un PR di locali VIP, il giro di pedofilia nei quartieri bene. Trovate i reportage e i commenti a pagina 10 e 11. La Stampa ha una fotonotizia ancora diversa, dedicata a quella che viene definita la ricerca del bomber perduto, la crisi delle punte che affligge l'Italia di Conte, quindi una notizia di calcio. Ma vi segnalo, oltre al titolo sulle indagini sull'ISIS, anche l'ennesima inchiesta in esclusiva della Stampa. Come vi dicevo anche domenica scorsa, la Stampa di Maurizio Molinari sta facendo questo sforzo importante e secondo me ammirevole proprio di fare delle inchieste un po' vecchio stile, quasi ogni settimana ce ne sono, quasi ogni giorno, e questa domenica in particolare ci si concentra sulla business della cocaina. Alle cosche un tesoro da 30 miliardi all'anno, un patto di ferro tra 'Ndrangheta e narcos latinoamericani. Passa dalla Calabria al fiume di stupefacenti diretto in tutta Europa. E questa inchiesta di Andrea Malaguti la trovate poi a pagina 2 e 3, corredata da un'infografica che è naturalmente impressionante, perché fa vedere il numero di sequestri di cocaina nel 2015, con Roma in testa con 310 kg, stacca Milano che è al secondo posto, dove i sequestri hanno invece raggiunto i 73,7 kg, e poi naturalmente tutte questi legami tra la mafia calabrese, la 'Ndrangheta, e i fornitori di droga, che sono sostanzialmente latinoamericani. Concludiamo prima della pausa, dove sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo, importanti per oggi, giorno di festa per eccellenza, e anche per domani, Pasquetta, con l'Avvenire, che dedica la prima pagina al proclama, un po' potremmo dire, di Papa Francesco di ieri. Nella sua omelia ha fatto questo elogio della speranza e ha parlato di questo rischio di essere cristiani come se il Signore non fosse risorto, cioè cristiani senza speranza. La gioia di sperare. La Pasqua può farci superare ogni paura. Nella veglia l'invito a stare accanto ai più deboli. E tra l'altro, naturalmente, anche sull'Avvenire ci sono poi richiami alle indagini sull'ISIS, e un richiamo che sugli altri giornali non ha ricevuto quest'enfasi, ma che tutto sommato è una notizia triste, sicuramente una sconfitta parziale: il fatto che il Belgio aveva in programma, a Bruxelles c'era in programma questa marcia per la pace e antiterrorismo, è però stata considerata troppo a rischio, e quindi il Belgio ferma anche la marcia antiterrorismo. La foto che correda questa notizia, che poi trovate insieme a tutte le altre che riguardano le indagini a pagine 6 e 7, è quella appunto di questo Faisal Scheffou, questo giornalista freelance che in realtà era chiaramente un reclutatore o comunque un fomentatore di odio tra gli immigrati o anche semplicemente i giovani musulmani che abitano a Bruxelles. Ci lasciamo un attimo per una pausa, come vi dicevo, anche con gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona Pasqua da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Ci mancavano quella di Libero, che titola sulla la parte italiana delle indagini sul terrorismo: terroristi italiani addestrati in Ucraina, tornano le Brigate Rosse. Così titola Libero. La procura di Roma indaga su numerosi connazionali a lezione di guerra al confine con la Russia. Uno di loro avrebbe detto: anche spagnoli qui a imparare tecniche militari da esportare poi nel loro paese. Il Libero è l'unico giornale che mette in prima pagina l'assemblea che c'è stata ieri di Popolare Vicenza, dove è venuto fuori per l'ennesima volta questa questione degli stipendi d'oro dei top manager, quegli stessi top manager che vengono definiti coloro che hanno schiantato Popolare Vicenza. Il giornale, anche in questo caso la parte italiana delle indagini sul terrorismo europeo, in questo momento terrorismo islamico che sta colpendo l'Europa, ci stiamo allevando i Salah in casa. In un anno 400 arresti per terrorismo, il fanatismo jihadista sta mettendo radici anche nel nostro paese. E un'inchiesta su come money transfer e carte prepagate finanzino i comandi. Vi segnalo un editoriale puntuto, potremmo dire, però con anche spunti di riflessione a questo punto veramente necessari, di Vittorio Feltri: perché la Costituzione non vale per l'Islam, che parte da una questione di cronaca, perché un carabiniere che ha esposto le sue opinioni sull'islamismo radicale è stato sospeso con l'accusa sostanzialmente di istigare all'odio religioso, e questo è uno delle tante esagerazioni, dei tanti paradossi che si stanno verificando in questi giorni, in cui si combatte tra necessità di non rispondere all'odio con l'odio, ma allo stesso tempo di trovare un modo per rispondere a questo odio, a questi attacchi terroristici. L'unità ha un titolo che torna sulla questione che abbiamo visto anche sul Sole 24 Ore, la questione e di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, del coordinamento tra intelligence europee. Quindi il titolo è Nella giungla dell'antiterrorismo, lo stato della sicurezza nell'Unione Europea in questo rapporto shock del coordinatore De Kerchove, babele di sigle e di database incompleti più volte denunciata dal nostro governo, così sottolinea l'unità. La fotonotizia però è dedicata alle manifestazioni che ci sono state ieri, soprattutto da parte dei familiari e degli amici di Giulio Regeni, sostenute anche da Amnesty International. Verità per Giulio Regeni, questo è le semplicissime parole che rispecchiano lo stato d'animo appunto di chi ha voluto bene a Giulio Regeni e che rifiuta queste verità definite con un modo un po' quasi edulcorato, di comodo, che arrivano dall'Egitto, come dicevamo, quella dei 5 rapitori che poi sono stati tutti uccisi, quindi non possono raccontare niente, che è l'ultima diffusa dalla capitale del Cairo. Il Fatto Quotidiano mette insieme nel suo titolo principale tanti fatti e il titolo è questo: dall'Egitto alla Germania prendiamo sberle da tutti. Le bugie del Cairo su Regeni, l'assalto tedesco a Kessler per Volkswagen e poi la questione delle trivelle. Sulle trivelle poi vi segnalo che martedì Il Fatto Quotidiano è in edicola con una guida al referendum, che peraltro trovate anche già oggi, una guida sui quesiti e sulla questione in generale sull'unità. Il manifesto, la centrale del terrore, è il titolo però di una fotonotizia che raffigura una piazza di Bruxelles inondata dai fiori lasciati dagli abitanti di Bruxelles per ricordare le vittime del terrore. C'è anche naturalmente la notizia di questo annullamento che dicevamo per motivi di sicurezza della manifestazione che ci doveva essere oggi a favore della pace. Concludiamo con il titolo della Gazzetta dello Sport. Oggi non ci sono partite di calcio, è Pasqua, però c'è un'inchiesta della Gazzetta dello Sport intitolata Siamo i più poveri, facciamoci furbi. Più poveri nel senso che le squadre italiane hanno i bilanci a volte con più poveri in due sensi, con una cifra molto bassa di ricavi. Per esempio, pensate che la più ricca in Italia, la Juventus, con 328 milioni di euro di ricavi, si confronta però in Europa con il Real, che ne ha 578. La più solida in Europa è il Bayern, che ha un attivo di 42 milioni, e quella meno solida in Italia è l'Inter, che ha un debito netto di 417. Perché facciamoci più furbi? Perché nelle prossime tornate di calciomercato appunto si dovrebbe un po' giocare di furbizia, secondo la Gazzetta dello Sport. Vi segnalo tra l'altro che la Gazzetta poi, a proposito di quello che sarà in edicola nei prossimi giorni, giovedì sarà in edicola con un libro su questo grande del calcio, Cruyff, che è scomparso 3 giorni fa per cancro. Era anche giovane, aveva 65 anni, grande calciatore olandese che ha lasciato appunto un ricordo in tutti gli amanti di calcio. Andiamo alle pagine interne dei giornali. Il Sole 24 Ore, come nel titolo di apertura, guarda avanti e quindi alla settimana di borsa che si aprirà martedì, perché domani è festa sulla maggior parte dei mercati. I mercati scommettono su dollaro e Fed. La valuta degli Stati Uniti ha recuperato l'1% sull'euro, naturalmente, ma per vedere la parità servirebbe un quantitative easing europeo da 4.500 miliardi. L'analisi di Maximilian Cellino: l'euro effettivo e quel rischio calcolato di Draghi. E poi un approfondimento di Riccardo Sorrentino, che torna anche sulla questione Brexit, perché sarebbe legata proprio alla paura di una Brexit. Forse avete sentito fin dall'inizio dell'annuncio di questo referendum sulla possibile che chiederà ai cittadini britannici se vogliono o no restare nell'Unione Europea. La City, gli esponenti della City, della comunità finanziaria londinese, si sono detti contrari fin da subito, e allora paura Brexit, la sterlina scende ai livelli del 2009. E poi, visto che oggi è Pasqua e domani è Pasquetta, saremo un po' tutti come a Natale, il 25 e il 26, passeremo anche del tempo a tavola con piatti tipici ma anche dolci tipici. Un bilancio di Emanuele Scarci: il cibo di Pasqua vale 1 miliardo. Positive le attese per domani, nelle casse dei ristoranti entreranno 104 milioni. Boom delle uova di cioccolato quest'anno, più 15%. Ci consoliamo insomma un po' con il cioccolato. E poi, visto che ieri c'è stato quello che probabilmente sarà il primo omicidio stradale punito con le nuove norme sull'omicidio stradale, lo avete sentito nei GR, questa donna che su un SUV ha travolto dei ciclisti, a pagina sulla copertina di Norme e Tributi del Sole 24 Ore un riepilogo su queste nuove norme del codice della strada: omicidio stradale, test, sanzioni, per alcune infrazioni particolarmente gravi non scattano le misure aggravate, sotto esame gli effetti della legge, all'esame della procura di Roma la prima possibile applicazione, appunto, dicevamo. Naturalmente la questione della Popolare di Vicenza la trovate approfondita con Cati Mandurino, che era proprio lì all'assemblea, un rosso che si è chiusa tra l'altro l'assemblea con la constatazione di un rosso di bilancio da 1,4 miliardi, soci approvano i conti e l'opera di pulizia, e il nuovo amministratore legato Iorio, la gestione ordinaria, ha detto è sorprendentemente positiva, quindi si cerca comunque di guardare al futuro di Popolare Vicenza. Passiamo alle pagine interne del Corriere della Sera, vi segnalo alla pagina 11 una cartina che fa ben capire quali sono, cerca di far capire, perché poi naturalmente da qui, dall'Italia, dall'Europa, è difficile capire. Lo Stato Islamico arretra in Siria e Iraq, il califfo perde uomini e taglia i salari. Abbiamo sentito questa notizia, appunto, che ci sono difficoltà, come in tutte le guerre che si prolungano, guerre di guerriglia, guerre di logorio, che si prolungano per molto tempo, aumentano le diserzioni e i contrasti tra i jihadisti. Secondo gli Stati Uniti sono stati uccisi finora 28.000 combattenti. E poi un approfondimento che ci riporta all'11 settembre, al 9/11 del 2001, naturalmente, perché ci sarebbe il ferito alla fermata del tram, era già stato condannato, pensate, per l'omicidio di Massoud nel settembre 2001. Massoud, lo ricordiamo, era il comandante afghano Ahmad Shah Massoud, detto il leone del Panjshir, il comandante dell'etnia dei Tagiki, ucciso il 9 settembre 2001 a 48 anni, due giorni prima appunto degli attentati, e molti legarono quell'attentato al via libera, all'attacco alle Torri Gemelle. Perché da lì poi si scatenò, come purtroppo sappiamo, una totale anarchia in Afghanistan, che Massoud in qualche modo era riuscito fino a quel momento a tenere sotto controllo. Cambiamo argomento, veniamo alla triste politica italiana. Il Parlamento, la Repubblica, ha un approfondimento sul partito degli assenteisti, e in questo partito domina Forza Italia, il record in particolare di Angelucci. Ma vi prego di ascoltare questa breve intervista a Piero Longo, che è un avvocato di Forza Italia, super assenteista, intervistato da Tommaso Chirico, che così risponde alle domande del giornalista. Avvocato, sa che ha perso, che ha un posto tra i 10 deputati più assenti in Parlamento? Lo so. Vuole spiegare perché è così? È una mia decisione. Attiene a una valutazione su come dividere il mio tempo tra la politica e il resto della vita. Non per ragioni professionali, lo scriva, ma per altre ragioni. E comunque, dica, io faccio quello che voglio. Voglio che scriva anche questo. Longo fa quello che vuole. Lo sto appuntando. In ogni caso, ai miei avversari fa solo piacere che io non ci sia, mentre al mio partito Forza Italia è del tutto indifferente. Perché non lascia il seggio? Guardi che io pago di tasse più di quanto ricevo da parlamentare. Per il resto può additarmi al pubblico ludibrio. Avvocato, scusi se insisto, ma perché allora non si dimette? Perché ho deciso di non farlo. D'altra parte anche voi avete dimostrato negli anni un tale astio verso di me, verso il mio principale assistito e verso l'avvocato Ghedini, che non mi stupisco più di nulla. Il suo principale assistito è Berlusconi. Sono solo domande per comprendere le ragioni delle sue assenze. Tra l'altro è in compagnia di tanti azzurri, visto che 4 dei primi 10 sono suoi colleghi di partito. La ringrazio. Buonasera. Queste sono le risposte di quello che a tutti gli effetti è un nostro di tutti noi che paghiamo le tasse dipendente. Non si giustifica per il fatto che a fronte di uno stipendio che possiamo tranquillamente chiamare d'oro, è un assenteista e fiero di esserlo a quanto pare. E su questo ci lasciamo un attimo per la pausa sul traffico. In primo piano. Eccoci ancora insieme per l'ultima parte della nostra rassegna, velocemente dal Messaggero un approfondimento sulle primarie americane. USA per battere Hillary, Sanders punta sull'Ovest, e tra l'altro nella notte il Messaggero, non come tutti gli altri giornali, non è riuscito a dare questa notizia. Sanders ha conquistato anche l'Alaska, sarà comunque molto difficile per lui avere la nomination democratica, però non molla questo vecchio leone della politica dei democratici americani. Vi segnalo dall'Avvenire, che come sempre ha uno sguardo molto ampio sul mondo, un reportage dal Messico: il tatuaggio della vita nuova in Messico, dove i capi gang diventano combattenti per la pace. Quindi, soprattutto quando sono molto giovani, è possibile comunque che rinizino anche chi era stato catturato dai tentacoli delle gang o dei narcos, è possibile ricostruirsi una vita. Un approfondimento anche sulla legge sull'affido condiviso. Il Messaggero scrive: troppe vittime dimenticate, sono 1,5 milioni in Italia, pensate, i minori orfani di padri vivi. E poi una battaglia che è dell'Avvenire ma anche di Radio 24, quella sui disabili discriminati ogni giorno. La LEDA, l'associazione appunto che tutela gli interessi dei disabili, in 6 mesi segnalati 130 casi su 353 seguiti dai legali. Dalle pagine del Fatto Quotidiano un approfondimento ancora sul referendum sulle trivelle, e poi un'intervista molto dura, molto critica verso tantissime persone, Renzi compreso, e Campo Dell'Orto, direttore generale della RAI scelto da Renzi compreso, di Angelo Guglielmi, ex direttore di Rai 3, uno che ha fatto forse il meglio della storia di Rai 3. Il titolo scelto dall'intervista di Malcolm Pagani è: la RAI è morta, serve solo pasti indigesti, e dall'Orto è borrioso e inconsistente. Due pagine intervista, 20 e 21 sull'Unità. Vi dicevo sul Fatto Quotidiano, sull'Unità, coraggiosamente, visto che la posizione, lo sapete, del Partito Democratico ufficiale è quella di astenersi dal referendum del 17 aprile, due pagine: trivelle sì, trivelle no, tutti i dubbi sul referendum. Domenica 17 aprile agli italiani verrà chiesto se vogliono che vengano fermati i giacimenti già funzionanti, anche se c'è ancora gas o petrolio. Due pagine appunto per capire meglio, visto che i media, anche l'Unità, sono stati accusati dai promotori del referendum di non fare abbastanza informazione su questa consultazione. Vi segnalo adesso i nostri supplementi domenicali, naturalmente cominciando da quello del Sole 24 Ore e dal Breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Risurrezione. Mantieni la mia carne nella tua eternità. Per me, e credo per tutti i miei lettori, la figura dello scrittore americano Jack Kerouac è legata al romanzo On the Road del 1957, attestazione del suo inquieto vagabondare geografico e spirituale. Scopro ora un'altra raccolta postuma dei suoi scritti intitolata Un mondo battuto dal vento, e in essa trovo questa invocazione sorprendente. È un'originale ritrascrizione del credo la risurrezione della carne della professione di fede cristiana. Quel Dio che ha assunto la carne umana, divenendo uomo in Gesù di Nazareth, ha deposto in essa un germe della sua eternità. Ma la preghiera di Kerouac prosegue così: «Grazie, Signore, Dio degli eserciti, angelo dell'universo, re della luce e creatore delle tenebre, per le tue vie, le quali, se non fossero percorse, trasformerebbero gli uomini in ottusi danzatori di carne senza dolore, menti senza anima, dita senza nervi e piedi senza polvere». E poi la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, a Roberto Napoletano, che oggi è dedicato alla Calabria, quella regione così bella, così piena di risorse, anche di giovani che vorrebbero dare il loro contributo, ma anche sempre piagata, come abbiamo visto dall'inchiesta sulla stampa sulla droga, dall'andrangheta, dalla mafia locale. E allora, partendo da una lettera di una lettrice calabrese, Roberto Napoletano cerca appunto di dare speranza anche in questo caso. Il male sottile del paese e la Calabria di Anna Letizia. Anna Letizia è questa lettrice che ha scritto denunciando i mali che affliggono la sua regione, ma anche il desiderio di riscatto della regione. Il titolo però della copertina è dedicato a un libro nuovo che è uscito sul Talmud, il Talmud babilonese, trattato Rosh Hashanah, ed è curato da Shemuel Di Segni. Il titolo Il Talmud rinasce dai roghi, scrive Giulio Busi, è molto più di una raccolta di norme e interpretazioni della legge ebraica, è un libro dialogico e aperto nel quale neppure Dio può avere l'ultima parola, ed è la prima traduzione italiana appunto di questo libro. Un'altra bella recensione nel bicentenario della morte di Charlotte Bronte, che è morta il 31 di marzo del 1855, era nata il 21 aprile del 1816, la grande scrittrice inglese, la più grande delle sorelle Bronte. Donne che non immaginate, il bicentenario è l'occasione per rendere giustizia a un'autrice moderna e indipendente che fu vittima del suo secolo. E l'articolo di Elisabetta Rasì prende spunto da due libri usciti sulla scrittrice di recente. E poi una quattro pagine di approfondimento su forse una delle fiere più belle che esistono al mondo, e sicuramente tra l'altro un primato europeo e un primato italiano, perché è la fiera più importante di libri per bambini, è la fiera del libro per bambini di Bologna, che si terrà dal 4 al 7 aprile appunto a Bologna, si chiama Children's Book Fair proprio perché ha questo carattere internazionale. Signori bambini, specchiatevi qui, il titolo dell'articolo di Goffredo Fofi, una rassegna gloriosa nata prima della Pimpa e prima dei lavori di Munari, in cui si mostra il meglio della narrazione attraverso disegni spesso autonomi dalle storie che illustrano, perché è proprio una fiera dove ha tantissimo spazio il disegno, ci sono anche molte mostre, quindi è una fiera per operatori da visitare, ma sicuramente di cui si parlerà molto nei giorni appunto in cui la fiera sarà in corso. Passiamo velocemente, vi segnalo gli altri supplementi della domenica. La lettura ha in copertina, come sempre, la copertina è affidata a un artista, e questa settimana Mario Donizetti, un disegno di una giovane donna. E poi vi segnalo alle pagine 2 e 3 un lungo articolo del genetista Edoardo Boncinelli, che è anche un grande divulgatore, si intitola Il sospiro. Fa parte del concerto delle passioni, arricchisce il repertorio delle nostre manifestazioni emotive come il riso, il sorriso e il singhiozzo, ma la scienza se ne è occupata poco e la letteratura persino troppo. Ora, per ovviare alla prima lacuna, una ricerca fa luce sui meccanismi biologici complessi che regolano questo estenuato anelito di vita. Il risultato più sorprendente dello studio: esistono due tipi di respiri dei quali non ci siamo mai accorti, per immettere nei polmoni il doppio dell'aria che inspiriamo di solito. E questo appunto a pagina 2 e 3 Boncinelli. La prima pagina invece Repubblica dedica il suo supplemento domenicale, la domenica, ai 40 anni di Apple, questo gigante della tecnologia, con due articoli, uno di Enrico De Agli e uno di Federico Rampini. 40 anni fa due ragazzi affamati e folli inventavano l'azienda più cool del pianeta. Oggi Apple è soltanto la più ricca. Insomma, questa è un'opinione naturalmente. Siamo ritornati dove tutto iniziò, per vedere cosa è cambiato. E poi un articolo che ho trovato bellissimo, un reportage bellissimo di Michela Murgia, che è stata invitata a visitare i laboratori scientifici dell'Università di Heidelberg, cercando Dio nel DNA di un pesce trasparente. E così la scrittrice ha scoperto che la grande bellezza può nascondersi anche dove meno si potrebbe pensare, almeno chi scienziato non è potrebbe appunto pensare che la grande bellezza è quella dei monumenti. Naturalmente pensiamo al film di Sorrentino su Roma, e invece c'è della grandissima bellezza nella ricerca scientifica. La serie Straparlando delle interviste della domenica di Antonio Gnoli a Pierre Riche, che è un sacerdote teologo, ha insegnato filosofia in Italia ma anche negli Stati Uniti. Il titolo dell'intervista: devo la conversione a Wittgenstein, mi spiegò che la ragione non è tutto. Quindi la sua conversione alla religione cattolica dovuta a un filosofo, appunto Wittgenstein, al grande filosofo tedesco Wittgenstein. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, anche se davvero oggi ci sono tantissimi. Un'ultima ve la voglio fare dal macro del Messaggero. Il titolo è dedicato alla Vespa: 70 anni, festa di un mito, la Vespa regina. 70, la Vespa naturalmente la moto inventata dalla Piaggio, lo scooter inventato dalla Piaggio. Ancora una buona Pasqua da Giulia Crivelli. Domani i quotidiani non sono in edicola perché oggi lavorano i giornalisti di Radio 24, i giornalisti della radio, dei siti, ma non quelli noi fortunelli della carta stampata. Però domani faremo un po' una rassegna dei settimanali e appunto dei siti. Quindi a domani, ancora buona Pasqua da Giulia Crivelli.